para. Tan cara, chalti hai kaano se para. Tan cara, chalti hai kaano se para. Tan cara, chalti hai kaano se para.